mio albergo era nel centro di Gerusalemme Est, di dove lo Shabbat è vissuto e si ferma ogni tempo. Camminavo nelle strade come un saraceno perso, pieno di dubbi nel tormento. Ero sballottato nel vento sotto sembianze umane. L'angelo si presentò, lui messaggero del cielo, piano piano mi sussurrò. Parlava una lingua antica, parlava la mia anima ferita. Mi disse: Mario, stai tranquillo, vivi in umiltà la tua vita. Segui il respiro del vento, annuncia la pace nel mondo. Anche se pochi ascolteranno il tuo canto, non preoccuparti, tu segui il tuo istinto. Sarò sempre al tuo fianco, in ogni ovunque se ce n'è bisogno. Sta per arrivare il giorno, per l'umanità un nuovo disegno. La terra sarà cerchiata, messa a fuoco, ma tu non perdere fiato. Sotto le lance dell'odio, tu non mettere dito. Più triste sarà il loro volto, tu sereno semina il campo. Ognuno raccoglierà i propri frutti, il tuo sguardo saranno i miei occhi. Sarà l'inferno ad infiammare il loro cuore, le loro parole. A te basta restare in silenzio, io farò in modo che si innalzi il tuo canto. E nessuno potrà più offuscare ciò che il mondo dirà al tuo cuore. Le tue parole saranno la mia bocca.